Ti voglio dire una cosa. Una cosa molto importante. Conta su di me. Io ci sarò sempre per te. Puedes confiar. Voy a luchar. Cuenta conmigo. No estés sola.